A tempo di sport di Gigi Garanzini. Nella puntata di oggi ci sarà spazio per Italia-Svezia, per gli spareggi mondiali, per la vigilia sofferta di Trapattoni e per quella drammatica di Egitto-Algeria, perché va molto al di là del pallone. Ma prima di tutto questo, uno sguardo a 360 gradi sul momento del calcio italiano con l'aiuto dell'avvocato Sergio Campana, storico presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi e alle radio ascoltatori. Dunque senti, io partirei da un argomento che so ti sta particolarmente a cuore e che ho scoperto lunedì sulle pagine del Corriere grazie a Fabio Monti. Il fatto cioè che esiste ancora in Italia il vincolo sino a 25 anni di età per i calciatori dilettanti, e cioè per una massa di circa 1.200.000 calciatori dilettanti praticanti. E giuro, confesso la mia ignoranza, il fatto che non lo sapevo e il fatto che voi stiate aprendo un'avvertenza o magari una battaglia su questo aspetto mi sembra che della serie meglio tardi che mai, insomma. Ma da almeno 2 anni che stiamo tentando di una soluzione con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, cioè risolvere questa anomalia tutta italiana. Infatti l'Italia è l'unico paese europeo in cui esiste ancora il vincolo. E quindi abbiamo scritto, abbiamo tentato di raggiungere anche una transazione, eccetera. Ma visto che non otteniamo risultati, siamo andati in sede europea e stiamo lavorando in sede di Commissione europea con interrogazioni parlamentari ed eventualmente con eventuali ricorsi. Non c'è nessun dubbio che il vincolo sia contrario prima di tutto alla nostra Costituzione, dico alcuni articoli, l'articolo 2, ai sensi del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, qui il diritto consacrato dall'articolo 1 della legge 91, che l'attività sportiva, professionistica o dilettantistica è libera, quindi c'è una grande violazione. L'articolo 3 che recita che tutti i cittadini hanno uguale dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, insomma c'è violazione del principio, perché come sapete i calciatori professionisti fin dal 1981 con la legge 81 hanno avuto l'abolizione del vincolo, e questo resta per i dilettanti che in grande maggioranza, specialmente nel campionato interregionale, sono professionisti di fatto. Poi l'articolo 4 della Costituzione che promuove le condizioni che rendono effettivo questo il diritto di esercitare una qualsiasi attività. L'articolo 18 che dovrebbe permettere all'atleta di dissociarsi da un'associazione con la quale ha firmato, l'articolo 48 del trattato dell'Unione Europea sulla libera circolazione. E questo potrebbe essere un passaggio chiave. Avvocato, hai detto il dato vero, mi sembra, no? Il dato di partenza è che siamo rimasti l'unico paese con sto vincolo. Esatto. Sì. Altrove come funziona rispetto all'età? Cioè fino a che età e voi fino a che punto, fino a che età sareste disposti a trattare? No, 25 anni, perché circa 4 anni fa avevamo ottenuto un primo passaggio, perché il vincolo era a tempo indeterminato, sì, e abbiamo ottenuto dalla Lega Dilettanti che gradualmente di anno in anno si abbassasse fino a 25. Sì. E ora questo discorso evidentemente è chiuso, ma all'estero ci sono diverse situazioni per cui non esiste assolutamente il vincolo e sì, magari ci sono delle garanzie per la società che ha fatto crescere il giovane calciatore, che ha delle indennità, sì, e quindi si potrebbe vedere anche in Italia eventualità di questo tipo. Certo, studiare formule alternative. Va bene, questa è la battaglia attuale dell'AIC. Io provo a proporre qualche altro argomento. Sfoglio stamani i quotidiani e leggo per esempio su Repubblica che anche Carletto Ancelotti sta con Pazzini, e cioè dice alla domanda secca: stai con Pazzini o con la Mauro? Dice con Pazzini, senza nemmeno discutere. Immagino che il presidente dell'AIC possa pensarla più o meno alla stessa maniera, ma magari sbaglio. Ma il presidente dell'AIC ha un cuore tricolore, quindi sì. Auspicherebbe che a vestire la maglia azzurra siano solo gli italiani. D'altra parte bisogna il cervello deve guardare alle regole. Se le regole permettono l'impiego di questi calciatori, chiamiamoli o col passaporto italiano, sì. Insomma, la storia della nazionale, diciamo, è piena di presenze di questo tipo di giocatori, da Orsi a passando per Sivori, passando per Maschio e finendo per Camoranesi. Certo. Quindi io devo anche da un punto di vista razionale guardare alle regole e quindi non fare discriminazioni. Nell'Under 21 giocano, dico, Balotelli e Obonna, quello del Torino, quindi certo. Insomma, fare discriminazioni mi sembra fuori luogo. Però Balotelli è nato in Italia e Amauri un po' meno. Sì. Insomma, se la regola dice che chi ha il passaporto italiano può essere può impiegato giocare, certo. In nazionale, sì, possiamo esprimere delle opinioni sull'opportunità, eccetera, ma... No, ma hai detto bene, la ragione o il cuore, io no? Freddamente devo guardare, certo, le regole che, certo, lo permettono. Mi piacerebbe con te, avvocato, ripercorrere, cioè vedere a che punto sono alcuni dei vostri cavalli di battaglia. Certamente un punto per voi d'onore è stata sempre, e in questi anni lo è diventato sempre di più, la battaglia alla simulazione. Allora, a che punto siamo e perché, dal mio punto di vista, poi magari sarà sbagliato, e perché secondo te la prova TV, che era diventata un bel deterrente a parer mio anche in questa materia, invece è usata così poco? Ma dunque, diciamo, io rivendico questa iniziativa che di solito abbiamo portato avanti e continuiamo a portarla avanti nell'incontro che facciamo annuale con gli arbitri, quella della simulazione nel calcio italiano, sì, che è un po' una peculiarità negativa del nostro calcio. Devo dire che qualche progresso l'abbiamo avuto, qualche risultato l'abbiamo avuto, perché mi sembra obiettivamente che ci siano meno casi di simulazione. Certo è che per esempio all'estero è una pratica che non è assolutamente diffusa, mentre qui in Italia, insomma, vediamo in molte partite che ci sono comportamenti dei giocatori che non corrispondono magari alla gravità del fallo subito, specialmente in area di rigore. Continueremo comunque a lavorare, perché bisogna lavorare, diciamo, da un punto di vista culturale sulla testa dei giocatori. Il terzo tempo che fine ha fatto? Cioè lo si fa, lo si pratica abitualmente e non lo si fa più? Era una delle tante cose di panna montata di cui campiamo noi in questo paese, oppure com'è? Sì, io credo che chiamare terzo tempo in Italia nel calcio non è esatto, perché un'altra cosa è quello del rugby, dove le due squadre si trovano tranquillamente a fine partita, consumano anche magari una bella merenda, e quindi questo è il vero terzo tempo. Quello è il vero. In Italia il terzo tempo si riduce alla, diciamo, a fine partita, che le squadre devono mandare dalla terna arbitrale, salutare, eccetera. Diciamo che molto spesso non si fa, o qualche giocatore non lo fa perché magari durante la partita ha contestato qualche decisione dell'arbitro. Quindi anche qui non siamo in linea, diciamo, con quello che si era progettato. Cioè, che ci si era proposti. Proteste, atteggiamenti nei confronti degli arbitri. Questo so essere un tema per voi particolarmente sensibile, evidentemente difficile eliminare. Faccio un esempio, non per colpevolizzare alcuno, Però se c'è una persona che si è impegnata sia per il voto sindacato che impegnato costruttivamente, oltre che un ragazzo adorabile, è Gattuso. Però l'atteggiamento di Gattuso, ripeto, anche consigliere AIC nei confronti degli arbitri, è a parer mio intollerabile. Ma Gattuso, insomma, bisogna conoscerlo bene, un ragazzo con un cuore grande così, con entusiasmo, con in campo da tutto, qualche volta ovviamente magari da troppo e cede in questa sua caratteristica. Bisogna dire in generale che in Italia i calciatori ancora ricorrono alla protesta troppo spesso rispetto a quello che avviene nei campionati esteri. Certo. Tanto vediamo bene in televisione che cosa succede in Inghilterra. Ma è proprio una delle prime differenze, mi pare, no? Che si nota guardando d'altra parte i nostri calciatori, insomma, credo che abbiano anche imparato qualcosa, ma devono sperimentare più di un'occasione che il comportamento degli arbitri nei confronti di chi protesta quando si gioca nelle coppe, per esempio europee, è diverso da quello che succede in Italia. Certo. Ma ripeto, la protesta è un'usanza ancora troppo praticata nei nostri campionati. Ti chiedo un pronostico adesso. Chi vincerà più facilmente, oppure chi non ha nessuna possibilità di vincere tra queste due battaglie? Una è quella che Platini sta facendo sui bilanci delle grandi società europee, e l'altra è quella che Blatter tenta del famoso 6+5 all'interno di ciascuna squadra, cioè di almeno 6 prodotti di allevamento in campo. Dato che sono tutte e due battaglie, mi pare, durissime, quale delle due secondo te ha più probabilità di farcela? Ma io sono abbastanza scettico, riconosco a Platini certe iniziative assolutamente lodevoli, io stimo molto Platini, lo conosco bene, eccetera, quindi tutto quello che dice dovrebbe essere a vantaggio del calcio. Questa crociata, diciamo, per mettere a posto i bilanci delle società, cioè i ricavi devono superare le spese, eccetera, io credo che sia di difficile attuazione, diciamo, almeno in tempi brevi, perché sappiamo bene come si gestiscono i club. E quindi passare dalla nostra situazione a una situazione ideale come quella di Platini è difficile. Per quanto riguarda il 6+5 di Blatter, anche qui devo rivendicare una paternità, perché diciamo qui in Italia l'ho portata io per la prima volta in sede federale. Il Consiglio federale, è vero. Anche qui è sacrosanto questo tentativo di Blatter di introdurre questa diciamo il 6+5, cioè almeno sei giocatori selezionabili per la nazionale in campo. Deve misurarsi con la normativa comunitaria che invece è per la libera circolazione e il libero impiego di calciatori provenienti da altri paesi. L'articolo 48 che hai ricordato io prima. Qui però sono un po' più ottimista, perché credo che in qualche modo si troverà una soluzione per affermare la specificità dello sport e quindi del calcio. Lo speriamo tutti insieme. Grazie, avvocato. Grazie a voi e buon lavoro. Non mancano certamente i messaggi sugli argomenti affrontati dall'avvocato Campana. Non riesco a leggerli tutti, è un peccato. Ne seleziono uno. Roby Dallari scrive da Milano: dai Campana, dice familiarmente, ma è carino però. Sivori si chiamava Sivori, Orsi, a Mauri si chiama Carvaglio. E non è una questione di discriminazione, aggiunge questo ascoltatore, ma di un po' di buon senso. Allora, caro Roby Dallari, senta cosa hanno pubblicato stamane Calabria Ora, il quotidiano della Calabria. Il sindaco di Terranova da Sibari, per portarsi avanti, ha invitato ufficialmente nel suo paese, nella sua cittadina, il presidente dell'Inter Massimo Moratti e Diego Milito. Perché? perché documenti alla mano, secondo il sindaco Veltri, per l'appunto di Terranova da Sibari, questo paese è in grado di rivendicare la cittadinanza di Milito. Nei registri dell'ufficio di Stato Civile del Comune figurano i nomi dei nonni paterni del calciatore, nati in paese, poi emigrati in Argentina, insomma c'è tutto l'albo genealogico a partire dall'inizio del secolo scorso, fino ad arrivare a molto più avanti. E insomma, e quindi se per caso secondo il sindaco di Terranova da Sibari, se per caso a Mauri nel frattempo si dovesse un po' smarrire, come ci sarebbe sempre Diego Milito, che tra i due, dico io, se proprio si deve cercare un oriundo, e ammesso che tutto questo sia vero, beh, insomma, tra Milito e Mauri saprei ancora chi prendere. Marco ha chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, la sento un po' male. Comunque torno dietro di un passo per quanto riguarda il calcio dilettantistico. Sì. Io ho sempre giocato prima, seconda categoria, e per quanto riguarda la legge dei 25 anni per quanto riguarda i giovani, non tutte le squadre hanno il settore giovanile in prima e seconda categoria. Il problema è andarli a cercare in giro, e sono pochi quelli disponibili a scendere questa categoria di bravi. Quei pochi che ci sono, per esempio, noi ne avevamo 4, quando 2 erano squalificati e infortunati, gli altri 2 non si presentavano neanche agli allenamenti perché avevano il posto assicurato. Quindi è una legge un po' farlocca, diciamo. Un po' farlocca, dice lei. Il problema di Amauri, scrive Claudio D'Asti, non è dove è nato, ma è che non ha mai giocato prima del Mondiale e quindi non fa parte del gruppo. Questa è un'altra ottica. Vi ho letto questa notizia, posso leggervi delle cose arrivate da Lippi, però c'è un ascoltatore già collegato. Allora, la precedenza va a Giuseppe da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Signor Garanzini, senti, io volevo parlare per gli oriundi, no? Sì. Anche se uno si chiama Sivori, Orsi, Rossi, compagnia bella, e la cittadinanza la si può dare, però queste persone come Camoranesi, Dante li avrebbe messi tra quelli che sono sospesi, cioè non sono né carne né pesce, no, non sono né italiani e né della propria nazione, nativi, perché i nativi sono di dove si nasce, e disse no Totò, e io lo nacqui. e quindi io sono di Campobasso, nativo, sì, di Campobasso, sì, trasferito a Reggio Emilia, sì, mia moglie è di Campobasso, abbiamo fatto 2 figli. Quindi lei non è emiliano, sta dicendo? Lei non è emiliano, lei è abruzzese, questo no, che sta dicendo. No, io sono molisano. Molisano, perfetto. Ecco, perfetto. Quindi se io, mi scusi adesso per l'esempio banale, no. Quando giocava tanto tempo fa Campobasso Reggio Emilia, sì, il mio bimbo allora, che aveva una decina d'anni, 11 anni, tifava Reggio Emilia, Reggiana, e io tifavo, certo, Campobasso, certo, anche se tutti e due siamo tifosi della Juve. Giuseppe, io non so quando, mi scusi, quando suona l'inno brasiliano oppure argentino e Camoranesi o Amauri sente quest'inno, che c'ha nel sangue l'acqua, e quel è il signor Trapattoni. Lei è stato chiarissimo Giuseppe, e il suo intervento secondo me è d'applausi, se non altro se non altro per la ricca e dotta citazione dell'immortale Totò. Giuseppe, grazie. Ci sono molti ascoltatori, ho sotto mano una mail di Giovanni Gardini appena arrivata, ma in precedenza Cesare, Fabio e tanti altri avevano domandato che cosa sia il vincolo. Beh, siete giovani, beati voi. Il vincolo era quel vincolo in base al quale un giocatore era di proprietà della società, e non per la durata contrattuale ma per la vita, nel senso che aveva firmato un cartellino ed era la società l'unica che poteva trattare la sua permanenza in quella società o il suo passaggio altrove. Oggi, nella fattispecie di cui si è parlato prima, e cioè che per 1.200.000 calciatori e calciatrici, tra l'altro dilettanti in Italia, contrariamente agli altri 27 paesi dell'Unione, il vincolo esiste sino ai 25 anni di età. Significa quindi che questa norma consente alle società di essere proprietarie del cartellino dei calciatori fino al compimento del 25esimo anno, che non è davvero poco. Abbiamo sentito prima quel delizioso ascoltatore Giuseppe il Molisano, certamente di, almeno a me è parso, di simpatia trascinante, quindi potrebbe essere il momento di sentire un po' Lippi, no? Per riequilibrare da questo punto di vista. Lippi su questa vigilia svedese. No, nessuno ha voglia ovviamente di parlare né di Amauri né di Cassano né di Lippi che torna alla Juventus e tutte queste cavolate qua, non mi interessa parlarne. Se volete parliamo tre minuti di Italia-Svezia. La formazione non c'è bisogno che ve la dica perché mi pare che insomma l'avete vista. È una partita che ovviamente è importante perché al di là del fatto che non ho voluto fare proprio uno stravolgimento totale, proprio per il motivo di mettere in condizione chi ha la possibilità di farlo, e ci saranno anche dei avvicinamenti durante il secondo tempo ovviamente, di farlo però in un contesto che abbia un suo equilibrio. Lippi poi stamane nella consueta intervista di immediata vigilia a Rai 1 ha detto le indicazioni che arrivano dalle qualificazioni contano poco, pochissimo, un gruppo variegato lo devo completare, se qualche giocatore non l'ho potuto prendere in considerazione per diversi motivi perché non dovrei farlo se ci sono le condizioni. Quindi praticamente ha fatto questo ritratto di Amauri, dopodiché evidentemente per non esagerare, ha aggiunto: faccio l'esempio di Aquilani, se gioca con continuità in una squadra importante come il Liverpool non dovrei considerarlo in forza di quel che è successo nelle qualificazioni. Vabbè, Maurizio dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno, dica. Volevo parlare del riforma, chiamiamola così, Platini, e faccio una domanda. Calcolando il Platini dice devi spendere quanto fatturi, quanto praticamente la tua società ha come volume d'affari, non puoi spendere un euro di più. Ma chiedo, società come il Real Madrid, il Manchester, piuttosto che il Milan o l'Inter o la Juve, che fatturano mal contati 200-250 milioni di euro, lo Stoke City, il Bologna, l'Albacete, che ne fatturano molti, ma molti meno, come fanno ad avvicinarsi a queste società? Ovvero, la speranza del Mantovani, che nasce una volta ogni tanto, piuttosto che del Sensi, che per carità si rovina per la Roma, ma sono assolutamente fatti suoi, che comunque riesce a portare una società di medio livello ad altissimo livello. Sì, la Roma. Sì, ho capito. Come si può equilibrare un discorso di questo genere? Si equilibra riportando le regole in quelli che le regole non rispettano in alto. In basso non è che tutti le rispettino le regole, poi le farò rispondere un giorno o l'altro in maniera più congrua e più documentata culturalmente in senso economico-finanziario della mia da Marco Bellinazzo del Sole, che si esibisce spesso su questi argomenti. Ma così a grandi linee io le posso dire che le piccole società, salvo rare eccezioni, già sono costrette a fare i conti con certi parametri. La riforma intende portare quei parametri anche in chi può permettersi di più, ma non potrà più permettersi di tutto, tipo le ricapitalizzazioni successive. Questo è lo spirito della norma. Da Prato ha chiamato Marco, buongiorno. Buongiorno Garanzini. In verità volevo fare una domanda a Bete, una precisazione a Bete. E allora, allora le devo girare il numero di Abete, sinceramente. Credo che Variale ce l'abbia, perché dato che... Non so se me lo daranno, però... fondamentalmente io sono d'accordissimo con quanto diceva delle simulazioni, sì. Però è anche vero che purtroppo in Italia l'arbitro prima di tutto fa una distinzione tra il grande campione e il non campione, diciamo, nel senso che se il VAR lo dice un Del Piero o un Totti è passato, se lo dice Mario Rossi invece viene ammonito. Ma questa non è simulazione, è educazione. Sul piano dell'educazione lei ha perfettamente ragione. Gli arbitri tollerano, più celebre un giocatore e più villano e più viene tollerata la sua protesta. Io ho fatto l'esempio di Gattuso prima, lei adesso ne ha fatti altri due, sono d'accordo e le condivido, ma questo però non è ancora la simulazione però. Beh, diciamo che i giocatori in questo modo tendono a accentuare il contatto. No, io su quello non sono granché d'accordo. Non mi pare che ci sia una Non mi pare che uno si, più è campione più si senta in diritto di prendere in giro l'arbitro, anzi io sinceramente la penso e mi pare di vederla al contrario, salvo casi molto rari e molto molto estemporanei, il campione in genere ha più rispetto di se stesso e quindi tende a buttarsi di meno del giocatore normale, però anche qua è difficile fare delle classificazioni, no? di questo genere. Ci sarebbe un frammento su Lippi e Cassano, ma sinceramente lo lascerei perdere. Sentirei invece Galloppa, che mi sembra abbia detto delle cose interessanti ieri, poi in ogni caso è un esordiente, quindi conosciamo un personaggio in più. Galloppa. Antonio è un giocatore che non devo stare io qui a dire che qualità, quindi credo che la non convocazione di Cassano dipende da Cassano, non penso ci siano altre problematiche. Credo che un giocatore così con le sue qualità, se non viene chiamato, forse tanta colpa è la sua. Ecco. Il mister fa le decisioni, ma non gli va puntato il dito contro, anzi. Galloppa è un debuttante, ma è uno che comunque le sue opinioni le esprime. Poi che siano opinioni che magari possono far piacere all'attuale commissario tecnico e quindi, come dire, portarlo ancora più su nelle simpatie dell'attuale CT, questo può essere una riflessione che qualcuno è autorizzato a fare, ma non si può dire che non sia uno che sia uno che non parla chiaro. Armando, provincia di Torino, buongiorno. Buona giornata e grazie Garanzini per il suo lavoro. Ma intanto sono contento che a 61 anni ho scoperto di non essere più vincolato, avevo firmato di 18 anni un cartellino, temevo sempre di essere ancora vincolato, ma non telefono per questo. No, telefono perché siamo senza speranza, è un paese che guarda continuamente indietro anche di 2-3 generazioni per trovare appunto una Mauri, un Sè, e abbiamo decine di migliaia di giovani che giocano a pallone piuttosto che altre cose, a cui neghiamo il fatto di essere italiani, solo perché il papà è marocchino, senegalese, eccetera. Che ne direbbe di una campagna per dopo aver fatto l'Italia 150 anni fa, di fare italiani questi nuovi, che si sentono italiani, tifano Juve, pochi come me tifano Udinese, ma insomma, e giocano a pallone, e si sentono italiani, sono nati qui, o sono arrivati a 2-3 anni, e sono più italiani di molti altri, certo. E giocano bene. Armando, io sto con lei sicuro, il solo fatto di dire che la penso come lei, e cioè che l'atto di nascita per esempio in questo caso è il parametro da cui partire, e quindi vale per esempio per Balotelli, perché prima no, ho l'impressione, riascoltandolo, ho cercato anche di correggerlo un tantino al volo, che il presidente Campana abbia fatto una piccolissima gaffo, comunque abbia un po' fatto un po' di confusione, perché Balotelli è nato in Italia, è figlio legittimo a tutti gli effetti di una coppia di italiani, come scrive Elisa per esempio, che ha mandato una mail in questo senso, e quindi non si capisce perché. Comunque io sono completamente d'accordo con quello che lei ha detto, il che significa che da qui in avanti i messaggi di insulti che arriveranno per lei almeno li avrò condivisi anch'io, perché se pensa che basti la sua saggezza e il fatto che lei non è più vincolato a, come dire, a portare, no, un minimo di senso comune, secondo me, in una materia come questa, ho paura che sia lei che io, coetanei, siamo o saremmo degli illusi. Siamo vicini all'ultimo intervallo di oggi. Gattuso in prestito al Manchester City. Beh, no, non è una notizia. Però l'ha scritto Daily Mirror stamattina e sembra non così campato in aria. Perché? Perché secondo il Mirror, Gattuso, che non rientra nelle prime scelte di Leonardo, ormai questo è palese, sarebbe intenzionato a chiedere il trasferimento fino a fine stagione per non rischiare di saltare i mondiali. E Mark Hughes, che apprezza Gattuso, leggo da questa agenzia, dai tempi dell'esperienza con i Rangers, sarebbe disposto ad accoglierlo a braccia aperte. Poi immagino che seguiranno smentite anche a breve, però è una di quelle che, se non è vera, è comunque abbastanza ben inventata. Galloppa è un para, avete capito, mi scusi l'espressione, scrive G. Torelli. Oh, l'arbitro di stasera di Egitto-Algeria è me lo segnala Dario Ricci, questa ed è dalla redazione, veramente deliziosa, si chiama Eddie Maillet, mi pare si pronunci, e sì sì, Maillet, ed è delle Seychelles. Trattandosi della partita più a rischio, credo, non dico negli ultimi anni, ma insomma comunque è una partita ad altissimo rischio, ad altissimi... Pensate che ci sono 15.000 militari intorno allo stadio di Khartoum in Sudan, dove si giocherà questo spareggio, 15.000 militari in stato di massima allerta. Insomma, significa una pazzia, no? Perché gli spettatori, cioè lo stadio contiene 41.000 persone ed è un rapporto superiore al 3-1, quello degli agenti, spettatori agenti. Il fatto che sia stato scelto un arbitro delle Seychelles significa che la FIFA da un lato ha cercato il massimo della neutralità, dall'altra ha magari imitato un tantinello Ponzio Pilato e da un altro ancora evidentemente un arbitro delle Seychelles sa come passare il resto della sua esistenza, magari no, non facendosi beccare, ecco, da comunque sia. Ieri ho fatto una gaffe abbastanza grave, che è quella di aver dimenticato la rubrica Sembra Ieri. Allora, oggi ne sentiamo due, è molto semplice, sicché il primo che va in onda, lo segnalo alla regia, è quello datato 17 novembre. Sentiamo cosa è successo nella storia dello sport ieri. Sembra ieri. 17 novembre 1991. La Juventus di Trapattoni batte di misura il Torino di Mondonico grazie a un colpo di testa di Casiraghi, ma il Torino gioca più di metà gara in 9. L'arbitro Ceccarini mostra il primo cartellino rosso a Pasquale Bruno, che reagisce tentando di aggredire il direttore di gara. Quindi è la volta di Policano, espulso direttamente per aver reagito con un calcio in faccia a un brutto fallo di Casiraghi. Bruno sarà squalificato per 8 giornate, Policano se la caverà con 4. Nonostante l'inferiorità numerica, i Granata, trascinati dal centrocampista spagnolo Martin Vázquez, rimangono in partita fino alla fine, sfiorando più volte il pareggio. Nel finale, Trapattoni lancia nella mischia il giovane Antonio Conte, appena arrivato dal Lecce. Per Conte è l'inizio di un'avventura che durerà 13 stagioni e più di 400 gare. Beh, mi spiaceva dimenticare, cioè appunto aver tralasciato questo Sembra Ieri, perché di personaggi conosciuti nel bene e anche nel male come Pasquale Bruno, beh, sinceramente ce n'erano in questo Marcord. Leggo prima del successivo, cioè quello giusto di oggi, che il campione olimpico dei 1500 di atletica a Pechino, Ramsi del Bahrain, è stato squalificato e privato della medaglia d'oro per doping. Nell'aprile scorso si era già annunciato che l'analisi sui suoi campioni di sangue lo davano positivo all'epocera. Adesso è arrivata la sanzione, l'oro sui 1500 metri delle ultime Olimpiadi viene assegnato, ovviamente dopo quasi un anno e mezzo, al keniano Kiprop, a conferma che ormai gli ordini d'arrivo vanno letti con comodo e le premiazioni andrebbero effettuate a scoppio molto ma molto ritardato, come vale anche purtroppo per un atleta italiano come Rebellin. L'altra data, invece quella giusta, sentiamo cosa è successo il 18 di novembre, cioè oggi. Sembra ieri. 18 novembre 1981. Michel Platini realizza quella che definirà la rete più importante della sua carriera. Al Parco dei Principi si gioca Francia-Olanda, sfida decisiva per la qualificazione ai mondiali dell'82. I transalpini sono reduci da due sconfitte e il CT Hidalgo è stato aspramente contestato da stampa e tifosi. Una situazione molto delicata, che Platini risolve da fuori classe, al 52esimo, con una perfetta punizione a giro. Nel finale ci sarà anche il 2-0, firmato da Didier Six. Per la Francia, l'accesso ai mondiali è una svolta. Inizia un ciclo che in 6 anni vedrà Platini e compagni disputare 2 semifinali mondiali, perse entrambe contro la Germania Ovest, e vincere gli europei dell'84. Allo stesso tempo, la sfida del Parco dei Principi è il capolinea per la rivoluzionaria Olanda del calcio totale, finalista ai mondiali del 74 e del 78. Gli Orange, però, torneranno presto grandi con la generazione di Gullit e Van Basten. Questa è una data davvero epocale, bravissimo Nicola Filippone a cogliere in quella partita una sorta di staffetta, no? Tra la nazionale rivelazione degli anni 70 e la rivelazione degli anni 80, che poi alla fine degli anni 90 avrebbe addirittura vinto un mondiale. Andrea ha chiamato da Vercelli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io la chiamavo per la prova TV e le simulazioni in campo. Sì. Io sono d'accordissimo con la prova TV, sono un po' contrario con le pene, perché una squalifica o un'ammenda di 5-10 mila euro a gente che guadagna milioni di euro all'anno mi sembra un po' poco. Far perdere la partita a tavolino alla squadra dove il giocatore gioca mi sembra una punizione un attimino più esemplare e che fa guardare con un occhio di riguardo anche la società diretta interessata del tutto. Volevo sapere lei cosa ne pensava di questo. Penso che adesso milioni di euro, non è che tutti guadagnino milioni di euro, per fortuna, però insomma, se la mettiamo sul denaro, allora non so come dire, allora una percentuale fissa dei cosiddetti emolumenti, sperando che tutti gli emolumenti siano davvero quelli che appaiono depositati in Lega, una percentuale, non una cifra, perché sennò si discrimina. Nell'altro modo si discrimina meno, ma a quel punto ha idea di quante moviole in campo verrebbero invocate per far sì che gli arruffapopoli potessero contestare con documenti inediti che quel fallo davvero o quel tuffo davvero non era tale e quindi i punti vanno restituiti? No, non mi avventurerei in una cosa di questo genere, sinceramente. Carlo Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Volevo riallacciarmi al discorso, al contesto degli azzurri extra comunitari, comunque tra virgolette, perché secondo me il fatto che ci sia una globalizzazione, allora, visto che l'Italia è una delle nazioni in assoluto al mondo che legifera in modo assoluto, ora o si mettono delle regole, anche nel calcio, o altrimenti si continuerà a parlare all'interno di queste cose. Che poi io sia d'accordo o meno questo, faccio un apro una parentesi e poi la chiudo non la apra perché siamo in chiusura, certo concluda. No, infatti ho visto l'orario. Quando cantano l'inno nazionale, potrà essere una stupidità, però ci hanno fatto delle trasmissioni qualche tempo fa, non tanto, l'unico che non canta l'inno nazionale è proprio Camoranesi. Meglio così, per come lo cantano gli altri dal mio punto di vista è assolutamente perfetto. Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Mi scusi Carlo, ma il rispetto dei tempi in questo periodo è assolutamente essenziale, ma anche proprio come regola generale. Grazie a tutti per l'attenzione e per l'ascolto, a domani.